Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Grillo parla di brogli, di possibili brogli alle passate elezioni europee. Beh, quelli che sono saliti sul palco con lui, i grandi guru del movimento, cosa fanno? Cosa dicono? Beh, dicono che il signor Farage, il suo nuovo alleato possibile, diciamo così, possibile nuovo alleato europeo, questo leader tosto, nazionalista, nuclearista, contro l'ambientalismo, questo grande leader britannico, dico io Parenzo, questo grandissimo leader britannico di Nigel Farage, beh, dicono che è un fascista, che è rozzo, che bisogna scappare da lui, alza la voce, che bisogna scappare da lui. Sentiamo per esempio il giudice Imposimato, uno di quelli che è salito sul palco di Grillo a Milano, a San Giovanni, la giornata finale, no? L'ultimo giorno prima delle elezioni europee, Ferdinando Imposimato, quello dei complotti del Bilderberg, a noi ha detto: Farage è un pazzo scatenato. No, ma questo è proprio un pazzo scatenato. Qui, se facciamo l'elenco delle negatività di questo qui, stiamo fino a domani mattina, perché sembrano quasi incredibili. Secondo me lui, quando saprà bene qual è il programma, si fermerà sicuramente, perché poi il Movimento 5 Stelle è un movimento, secondo me, democratico, quindi... Figli delle stelle, figli della notte che... Sempre Imposimato, Farage, pericoloso da tenere lontano. Non credo che Grillo sia così, così ostinato da pensare a scegliere un personaggio che squalificherebbe tutto il movimento. Questo qua è un personaggio pericoloso, questo è pericoloso, questo è da tenere lontano, perché mi pare che lui sia anche un sostituto di Berlusconi, mi pare che lui è. E infine, Dulcis in fundo, sempre qui alla zanzara, Farage è una mezza calzetta, altro che Churchill. Imposimato, uno degli uomini più vicini a Grillo. Secondo me lui non si è documentato bene. Io stimo molto Grillo perché ha creato in Italia l'opposizione che prima non c'era. Secondo me su questo si deve un po' documentare, ma non c'è niente di strano, perché uno che non conosce, non è che Farage che è Churchill. Farage è una mezza calzetta, insomma. Allora, io sostengo, caro Parenzo, sostengo una cosa molto semplice. Sentiamo. Ma scusa un attimo, Grillo è un maverick della politica italiana, cioè un outsider, uno che viene da fuori, uno che non fa parte di nessuna consorteria, non fa parte di nessun circolo, eccetera, eccetera, nel bene e nel male. Allora, con chi deve allearsi? Con l'ambientalismo, con gli ambientalisti in Europa che sono dei ferri vecchi? Ma che c'entra? Con chi si deve alleare? Con un altro come lui, che è un outsider, un maverick. Ma dipende che cosa uno sostiene, ma no, matto che non sei altro. Innanzitutto, su molte questioni, senti David, mettiamo in chiaro una situazione. Allora, o si sente o non si sente. Siccome io non sento, allora passiamo oltre. Allora, Farage, punti in comune. Io non ne posso più di questa situazione. O la risolviamo, chiudo baracca e burattini. Punti in comune con Grillo. Farage, intervistato alla Sky, Giovanna Pancheri. Well, first the man, Grillo è un intrattenitore, una persona divertente, un uomo appassionato. Abbiamo pranzato insieme, parlato un paio d'ore, i punti in comune sono molto forti. Lui crede nella democrazia diretta, nel modello svizzero in cui gli elettori hanno il potere di chiedere referendum sulle questioni di interesse nazionale, ma anche su questioni minori, magari locali. E questo è esattamente quello in cui crede anche l'UKIP. What UKIP stands for. Altra questione, Renzi e la Rai. Renzi e la Rai, 150 milioni vengono chiesti, ne abbiamo già parlato, 150 milioni di sacrifici per ripulire un po' di roba, per fare un po' di cassa, insomma, per togliere ritorno qualche spreco, magari non tutti. 150 milioni Renzi chiede alla Rai. Cosa succede? Sciopero l'11 giugno, tra l'altro il giorno prima dell'inizio dei mondiali, in modo paraculo. Sciopero dei dipendenti Rai l'11 giugno, vi rendete conto o no? Nessuna diretta, eccetera. La Rai non vuole risparmiare 150 milioni. Renzi, però capite che se mi fanno la polemica per i 150 milioni di euro, quando i 150 milioni di euro sono lì, qui stanno tagliando tutti, le famiglie sono anni che tagliano, se si chiede un contributo alla Rai indicando anche la strada, trovo francamente umiliante dover assistere a queste scene. E il paese reale è qui, non è dove pensano loro, il paese reale è qui. E più lo fanno, più fanno del male alla Rai, azienda pubblica. Viva la Rai, se starai buono, il tuo Mazinga vedrai. Allora, Renzi tra l'altro ha detto che se annunciavano lo sciopero prima avrebbero preso il 42%, altro che il 40%. Questo non lo so, perché poi la gente se ne fotte, però. Che cosa giusta è con la Rai, è sempre festa, viva la Rai. Il 42%, avrei preso il 42%. Tutte le discussioni sul ruolo dei partiti dentro la RAI, e mi permetta anche su questa francamente incredibile riflessione e polemica che nasce dal sindacato interno, che devo dirle, lascia il tempo che trovo, c'è soltanto un dispiacere forte, se avessero annunciato lo sciopero la settimana delle elezioni anziché il 48 prendevo il 42,8, è andata così, l'hanno annunciata dopo, è un peccato. Nessuno è perfetto. Poveri noi, se non si mettessero d'accordo alla Rai. Abbiamo già un ospite pronto, un grande ospite per parlare del Movimento 5 Stelle, di altre cose, e brogli, non brogli e altro. Però, caro Parenzo, vorrei farti ascoltare prima questo. No, però su questo della Rai. Ma aspetta, diciamo, c'è tempo, cosa. Ma c'è una. Ci sono 2 ore e mezza di trasmissione. Perché sei così? Perché vai così di fretta? Cerca di riaggiustare. Mi fai incazzare. Cerca di riaggiustare le tue comunicazioni. Beh, adesso sono aggiustate. Beh, no, ma devi parlare attaccato al telefono. Quando mi verrà cazzo, una malattia, ma non me ne frega niente delle malattie, fai causa a Confindustria, che me ne frega, mica pago io. No, a te faccio causa. No, Renzi, Brunetta, senti, fastidioso incidente alle elezioni. Ma tu adesso dai la parola a Brunetta, si chiama. Ma non è Brunetta, è Renzi, non si sente, riaggiusta, non si sente. Il governo, non so, lei pensa a un governo solo, immagino, da qui a 10 anni. Però i governi questo che fastidioso stanno... incidente delle elezioni che ogni 5 anni ci sono. Ecco, però avranno alle militato. Agenzie, fastidioso incidente, tra virgolette, dice sorridendo Renzi, chiuse virgolette. No, perché... No, perché adesso parte. Sì, certo. Mi immagino Brunetta, attentato alla democrazia, commissione d'inchiesta. Oh, sarà particolarmente contento del fatto che fra poco elimino Parenzo dalla discussione, il professor Paolo Becchi, buonasera. Buonasera carissimo a te e a tutti gli ascoltatori. Paolo, come sei? No. Pure te in viva voce, dovete farmi incazzare subito tutti quanti questa sera, sei in viva voce, togli il viva voce immediatamente, per favore, grazie. Ma io ti sento benissimo, e tu dovresti sentirmi bene anche. Ma siamo noi che però ti sentiamo con la cosa, ragazzi non mi fate impazzire qui, qui ci vuole il telefono messo normale, senza viva voce, altrimenti non si sente una mazza all'esterno nei milioni di persone che ci stanno ascoltando. Caro Paolo Becchi, autore, ecco qui, autore... Adesso va bene? Sì, benissimo, perfetto. Autore di Colpo di Stato Permanente, cronache degli ultimi 3 anni, I Grilli, Marsilio. Allora, professor Becchi, io dico subito una cosa, ma hai scritto un post sul blog di Grillo a proposito di Farage. E molti esponenti di punta del Movimento 5 Stelle, gente che andava sul palco, e tu non ci sei andato sul palco, dunque puoi parlare anche molto più liberamente di altri, secondo me, dicono Farage è razzista, un tipo pericoloso, non bisogna fare alleanze, è uno che non vuole gli immigrati, eccetera. Come rispondi a questi qua? Ma rispondo che mi sembra strano che queste affermazioni vengano fatte da persone che dicono di essere informate, perché se leggessero quello che ho scritto si renderebbero facilmente conto che non è così. Non è una persona, non è un razzista, né il movimento, che il partito che lui rappresenta è espressione di una lotta molto dura nei confronti dell'Unione Europea e delle politiche di austerity dell'euro che questo ha rappresentato. Io credo che... Però scusami, alcune affermazioni fatte da dirigenti dell'UKIP, del partito di Farage, sono forti, anche lo stesso Farage... Guarda, alcuni di questi sono stati per queste affermazioni espulsi dal partito, e ti posso anche dire che Farage è espulso addirittura dal gruppo Borghezio per alcune sue affermazioni, quindi direi proprio che sotto questo profilo io lo vedo con una grande possibilità per il Movimento 5 Stelle, se il Movimento 5 Stelle si accusa al movimento di dire ma siete lì, non fate niente, in questo modo sicuramente si farà qualcosa, perché... Però scusami, sia Fo che Parenzo, cerchiamo di riprendere il filo, sia Fo che Imposimato, cosa sono a questo punto, professor Becchi, due rincoglioniti? Ma no, io non mi permetterei mai di... Però sono disinformati, disinformati. No, io direi che valutano il movimento sotto le vecchie categorie della destra e della sinistra. Un movimento che si definisce sin dall'inizio post-ideologico non deve fare necessariamente alleanze con Tsipras o che ne so io. Come non l'abbiamo fatto le alleanze, il movimento non le ha fatte le alleanze in Italia Però tu dici, hai detto all'inizio, sono anche disinformati perché non hanno letto il programma di Farage, dunque vanno per stereotipi. Sì, questo parlano per stereotipi sicuramente, perché guarda, una cosa è certa, l'unica opposizione che c'è stata nel Parlamento europeo precedente non l'hanno fatta né i Verdi né l'estrema sinistra, l'unica opposizione l'ha fatta Farage e il suo gruppo, questo è un dato obiettivo incontestabile. Chi si opposto alla politica della Troica all'interno del Parlamento europeo è stato solo quel gruppo lì, questo è un dato di fatto che non si può contestare. Parenzo, che dici? No, io ti provo, professore, perché devi fare incazzare anche in un giorno di vacanza? Spiegami perché. Perché allora tu da oggi devi sostenere, ad esempio, che sei a favore del nucleare e del carbone. Ma uno non può essere d'accordo su tutto, assolutamente, perché il gruppo, quel gruppo, a differenza di altri gruppi, lascia la possibilità di avere la propria linea politica, e l'ha detto espressamente. Tra l'altro Farage ha fatto una dichiarazione molto importante dicendo: so che il Movimento 5 Stelle ha una politica energetica diversa dalla nostra. Bene, non ci interessa questo. Vogliamo distruggere l'euro? Vogliamo mettere in discussione il fiscal compact? È d'accordo il movimento su questo? Andiamo avanti. Vogliamo mettere in discussione il trattato transatlantico? Cioè, l'unico modo è allearsi per fare queste cose, l'unico modo è allearsi con questi qua. Sì, ma lui ha detto semplicemente: sulle altre cose il Movimento 5 Stelle va avanti per la sua linea. Però questa è una tattica per contare al Parlamento europeo, dove se non ti allei con qualcuno in realtà... E non c'è dubbio, non c'era altra soluzione. I radicali, quando entrarono nel Parlamento europeo, furono costretti, per dire qualche parola, ad allearsi con Le Pen, ma non con la signora adesso, ma con il papà della Le Pen. Scusami. Dunque, i fascisti chi sono secondo te oggi? Quelli che accusano Farage di essere un fascista, in realtà se adoperiamo il termine in senso generale, è chi sta facendo questa campagna Repubblica sono fascisti è una campagna di disinformazione nei confronti di questa persona, per far sì che il Movimento 5 Stelle si allei con i Verdi oppure con liste vagamente di sinistra o di estrema sinistra. Cioè, chi sono i veri fascisti oggi nell'informazione? Chi sono? Ma guarda, se i fascisti dell'informazione sono coloro che secondo me nascondono la verità e la manipolano. In questo senso effettivamente grandi giornali italiani stanno facendo questa grande opera di... tipo la Repubblica, il Corriere, ma anche il Corriere della Sera, ma anche la Stampa, sono tutti i tre giornali fondamentali dell'informazione, direi quasi paradossalmente hanno un atteggiamento fascista di disinformazione. Sì, paradossalmente oggi passa quasi più un messaggio di verità attraverso un programma come il vostro o attraverso la televisione che attraverso i giornali, perché tutti i giornali sono omologati. Io su questo, su questo non ho dubbi. Parenzo, torniamo tra un attimo dopo il traffico. 800 24 00 24, professor Paolo Becchi è con noi per commentare le ultime cose del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro c'è pure la questione, Parenzo, dei brogli, tra poco. La Zanzara. Well, now, little mosquito, there must be... amico mio, lì te lo dico da amico, gatta cicova lì. Oh, ragazzi, abbiamo aperto questa trasmissione con Siamo figli delle stelle, siamo con Paolo Becchi, professore di filosofia del diritto Università di Genova. Io non so più come nominarlo, perché i suoi rapporti con Beppe Grillo, caro Parenzo, hanno alti e bassi, per cui, come dire, grande elettore, guru, diciamolo, dai, su, diciamolo del... No, io voglio, ma guru, adesso guru, grande cucù, libero pensatore. Sai perché mi sta simpatico a me il professor Becchi, Parenzo? Al di là di quello, al di là di quello, al di là di quello che dice, al di là di quello che dice, uno si può essere d'accordo, sì, alcune volte o no. Simpatico, certo. A me no, ma non è questione di simpatia, a parte che è simpatico, eccetera. Simpatico. Sono andato a casa sua, ho pranzato in maniera meravigliosa, persona simpaticissima, famiglia meravigliosa. Non hai pagato. Ma no, ma che non l'ho pagato, che c'entra? Ah, poi diremo, scusa, no. Dopo. 19:40, sì. 19:40 racconteremo al popolo della Zanzara. Sì, parla più forte. Cruciani, sì. Come Cruciani tratta quella che lui chiama la servitù. Ma quando mai? Gente che lavora. Sì. Come hai trattato quel povero persona che lavora a casa tua, umiliandolo. No. Allora, professor Becchi, professor Becchi mi sta simpatico semplicemente per un motivo, perché ha la testa libera, perché non ha pregiudizi, è uno che pensa con la testa sua, qualche volta in disaccordo con Grillo. Quando è che avete litigato l'ultima volta con Grillo, professor Becchi, me lo racconti? Quando sono andato in televisione, mi pare un programma, non ricordo più neanche quale. Adesso si è riconciliato però. Ma guarda, quel post io l'ho scritto così di getto, non è che mi è venuto in mente dopo che avevo letto, dopo che mio figlio mi ha detto, ma guarda, io non leggo il fatto, mi ha detto guarda, c'è un certo scanzo, un giornalista, è un giornalista che ha scritto una cosa, e me la legge mio figlio, mi legge sta roba qua, e dico ma chi è questo qui, e dico ma non lo so, allora mi è venuto quello che io chiamo il vomito cerebrale, e mi sono messo a scrivere, e l'ho scritto di getto. Cioè, ecco, a te Scanzi ti fa vomitare un po' quello che scrive? Ma non so chi sia, non lo leggo, ma è mio figlio che mi ha letto questa cosa. Senti, ma tu pensi davvero che ci sono stati dei brogli? Ma guarda, ti viene un po' il sospetto, no? Perché? Un odore di... Perché, insomma, io ero convinto che vincesse Renzi, ma di un margine, non so, di 2 o 3 come punti. Come tutti, sì. Ma non 40%, una differenza allora? Di 20 punti. Non lo so, la cosa mi lascia un po' perplesso. Cioè, per te veramente sai, qualcuno ha manipolato le urne? Ma nei seggi non credo, ci saranno dove, le solite allora? Cose. Nei flussi informatici, nei flussi elettronici, scambi elettronici delle informazioni come avvengono oggi, no? Non lo so, mi farei cioè, tra i seggi, tu dici tra i seggi e la comunicazione dei risultati in quel flusso elettronico c'è stata un'intromissione da parte di qualcuno? No, io non dico questo, ci mancherebbe altro. Dice, non lo dice. Però mi è venuto il sospetto, ecco, tutto lì. Ma per questa storia di Soros? Credo che sia avvenuto anche altri, perché se guardi sui blog, eccetera. Ma per questa storia di Soros, dici tu, che peraltro non è vera questa storia di Soros che ha gestito. Ma guarda, non lo so se sia vero o meno, sta di fatto che però una cosa è questa: Soros prima delle elezioni, il collegamento esterno, ha parlato proprio, se non so, a Ballarò o da qualche altra parte in Italia, proprio dicendo che il pericolo fondamentale di queste elezioni era il Movimento 5 Stelle. E poi c'è anche da dire una cosa. Ma non è vero che la società che ha gestito le elezioni nell'Ucraina, nell'Ucraina, sì. scusami, sì. Insomma, nel cambiamento di governo che c'è stato, un ruolo l'ha esercitato proprio Soros. Anzi, tra l'altro, questo dalla cioè, tu dici che ha tramato contro il Movimento 5 Stelle, Soros. Io non voglio dire questo. Cioè, un po' di sospetti su certe cose lo è. Senti, un'altra cosa, ma secondo te la sconfitta, come hanno detto alcuni, è colpa degli italiani? Cioè, sono gli italiani che non hanno capito perché. Io non sono. Dario Fo questo ha detto. No, vabbè, d'accordo. Io esprimo il mio parere, no, certo. Io non do mai la colpa agli italiani, probabilmente anche il Movimento 5 Stelle avrà fatto i suoi errori, però ripeto, errori che non possono a mio avviso giustificare uno stacco di 20 punti, qui c'è qualcosa che non c'è qualcosa che non torna, ma ripeto, è una sensazione, io non ho nessuna prova. Come Parenzo, che dici, nel 2011 quando è caduto Berlusconi, chi aveva le prove che abbiamo oggi? La verità si saprà tra qualche tempo, magari. Del colpo di stato permanente che è cominciato nel 2011 con le dimissioni costrette di Berlusconi. Tu dici l'abbiamo saputo dopo. Allora, giornale radio, fermi tutti, se il professor Becchi vuole altri 2-3 minuti dopo le 19:15. Abbiamo cominciato così. Restate con noi, ciao. Sì. E il conduttore? Sì, è il conduttore, certo che è il conduttore, amico mio. Chi deve essere? Se uno chiama la radio, Parenzo, questa cosa mi fa impazzire, no? Uno chiama la radio, sta lì, aspetta, no? Cioè, si rende conto che siamo in una trasmissione dove c'è un conduttore. Uno chiama la radio, aspetta, poi a un certo punto fa: pronto? Pronto? E il conduttore? Ma sì, ma secondo te chi deve essere? Tu come risponderesti a uno così? Che è successo a Davide? Io non lo so, ma ragazzi, ma che devo fare io? Venitemi in aiuto voi, non so che fare. Abbiamo il tragitto. È un gatto che ormai è tutto finito. Ma no, finito. Ma è tutto finito, ma questo qua non fa un cazzo, cioè non è possibile. Non fa niente, è in festa, oggi è festa, non è festa! Si lavora anche oggi! Si lavora qui, si lavora! Non si sta con i bambini a non fare un cazzo! Sono tempi duri, lo dico io, sono tempi duri. Venuta nel mio spazio sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda. Allora, Oliviero Toscani alla Zanzara, Grillo è come Pannella. Arriva. Ma non è vero che prende Grillo, Grillo li ha persi ormai. È un peso, è come Pannella per il Partito Radicale, uguale e preciso, con tutto rispetto, ma è così. Sempre Toscani, Farage. Non è razzista, solo un pirla. Questo Farage è razzista secondo te, questo qua? Uno parla male delle donne, dice Beh, che insomma, dice delle cazzate che non è possibile, non è neanche razzista, è pirla. Cioè, è pirla. Parenzo, ti segnalo che qui stiamo lavorando, cioè stiamo lavorando, c'è una trasmissione in corso, abbiamo lavorato oggi, stamattina, questo pomeriggio, stasera, cioè non è che siamo qui a non fare una mazza, cioè stiamo lavorando, così è una segnalazione che ti voglio dare, poi se questa segnalazione la vuoi seguire, beh. Ma se non mi chiami all'altro numero che ti ho dato? Sì, vabbè, arrivederci. Il parte è cominciato tra le zanzare. Marchionne con Renzi, sapete che tra i due c'è stato un rapporto di amore di Renzi nei confronti di Marchionne, poi di contrasti. Adesso Marchionne, che è stato mezz'ora ad aspettare l'intervento di Renzi l'altro giorno, non mi ricordo dove, al Festival dell'Economia a Trento, dice l'unica soluzione possibile. Quindi l'agenda di Renzi oggi io credo sia l'unica agenda che abbiamo come paese, che abbiamo come Europa, e spero che lo ascoltino. Poi dice anche un'altra cosa sulla pubblicità, Marchionne. Dice: io negli Stati Uniti faccio pubblicità seria, non con le veline. Non si capisce a che cosa è riferita questa cosa. Probabilmente al modo di fare pubblicità in Italia, che si fa con le veline, eccetera, eccetera. Questo è un attacco assurdo di Marchionne. Sapete che ho il busto in casa di Marchionne, però. Caro Marchionne, qui che vuol dire? Negli USA faccio pubblicità seria. Voi siete stati con me la sera del Super Bowl, nel bar di Detroit, quando abbiamo fatto la pubblicità di Clint Eastwood. Quella pubblicità là è una pubblicità americana, non ho fatto vedere le veline italiane che ballavano con intorno alle macchine. Pubblicità seria, impegnata verso il paese. Cioè, allora, negli Stati Uniti si fa pubblicità seria, seria. In Italia, quando ci sono le veline intorno alle macchine, si fa pubblicità un po' così, cafonal, chiamiamola così. Bah. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. La La pagella di Bruxelles, fare di più già quest'anno, tassare consumi e case, più tempo per il pareggio, Reni, il rinvio, non è un bene per l'Italia. Padoan, Bruxelles apprezza il nostro lavoro, acceleriamo sulle riforme, nessuna manovra correttiva, Renzi, l'Italia riparte, la musica è cambiata. La parata del 2 giugno napoletano, difendere insieme Italia ed Europa, la pace non è un bene acquisto per sempre, tornano le frecce. Il blog di Grillo, brogli alle europee, duro attacco a Pizzarotti, ma anche Dario Fo critica il dialogo fra l'ex comico e Farage. Dopo un lungo regno in Spagna, abdica re Juan Carlos di Borbone, sale sul trono il figlio Felipe, 46 anni, sarà Felipe VI. Videocollegamento dall'India dei Marò con i deputati, abbiamo obbedito a degli ordini e siamo ancora qui, sbagliato il muro contro muro. I convocati di Prandelli per il Brasile fuori Rossi, dentro Insigne ed è polemica per i mondiali 2022, il Qatar avrebbe pagato tangenti. No me molestes mosquito, no me molestes mosquito, no me molestes mosquito. Maurizio Gasparri, cosa dice il Maurizione nostro? Parenzo, ci sei finalmente? Ma io c'ero anche prima. Sì, sì, ci sei sempre, tu qui stiamo impazzendo a cercarti e ci sei sempre. Gasparri ora dice... Anche adesso, ma è una mania proprio. Sì, una mania, certo, una mania, sei solo tu, sicuramente sei a posto tu. Gasparri, bisognerebbe farmi un monumento perché sono io che salverò la RAI dal cattivo Renzi. Io mi aspetto che la RAI faccia una statua a Gasparri da mettere sopra il cavallo a Viale Mazzini, così ci sarà un monumento equestre al salvatore della RAI che avete qui di fronte a voi in diretta. Maurizio Gasparri, 18 luglio 56, autore della legge 112 del 2004, che ha garantito la sopravvivenza e il rafforzamento del servizio pubblico. Costruitemi una statua, dipendenti RAI, a parte che lo sciopero è in forze, perché se Berlusconi avesse chiesto un sacrificio alla RAI sarebbero calati gli unni, come dire, no? Forse anche ha ragione, perché ovviamente era il proprietario del maggior competitor, per cui Berlusconi di sacrificio alla RAI non li ha mai chiesti per pudore, e anche perché gli conveniva in realtà il duopolio, gli è sempre convenuto il duopolio. Adesso che invece i sacrifici li chiede Renzi, viene annunciato lo sciopero, però poi i conduttori, alcuni sindacalisti eccetera dicono no, per carità, non si può disturbare Renzi, giustamente dobbiamo fare i sacrifici, insomma con Berlusconi ci sarebbero stati non gli scioperi, sarebbe già la RAI avrebbe spento tutto per 10 giorni finché Berlusconi non ritirava i propositi di togliere 150 milioni. Se oggi la RAI può vendere una quota di minoranza di RAI e fare soldi è perché io impedii la svendita della RAI. E quindi cominciate tutti quanti a erigere la statua a chi vi ha salvato e scioperate contro chi vi vuole uccidere. Matteo Renzi. Oh, eccoci, David. Il professor però a Gasparri poi gli possiamo dire qualcosa poi a Gasparri o no? Sì, ma tu puoi dire quello che vuoi, perché basta che parli e basta che si sente. A Gasparri in questo caso non è che ha molto da dire, lui che dice di aver difeso la RAI, lui fece una legge che per molti è stata in verità una legge che ha favorito il signor Biscione, il signor Berlusconi. Vabbè, non hai niente da dire. Non hai niente da dire. Vuoi dire qualcosa a Becchi? Vuoi dire qualcosa a Becchi? No, Becchi adesso mi sente, se c'è ancora. Secondo, lo sciopero della RAI è uno sciopero allucinante, sì. Perché invece quando cacciarono Biagi, Santoro e Luttazzi nessuno mosse un solo dito. Vabbè, questa è una stupidaggine, non c'entra niente, dai. No, c'entra e come invece, perché qui sono pronti a scioperare semplicemente perché si chiede di fare un taglio e trattare giustamente la RAI come qualsiasi azienda della pubblica amministrazione, sì. Cioè un'azienda che funzioni. E invece quando era in discussione la libertà di informazione, questo è il punto, nessuno scioperò. Nessuno scioperò quando cacciarono dei al professor Becchi e io non ho capito una cosa da Becchi, io non ho capito, secondo lei questi brogli ci sono stati o no? Perché se ne parla, no, lei ne ha scritto. I brogli è una vergogna anche solo introdurre il tema dei brogli. Soros, ma hanno perso, fine, ma quali brogli? Ma brogli di chi? I computer, Becchi, ma non volevano Becchi fare il voto in rete. Becchi? Sì, dimmi, scusa. I brogli ci sono stati o no? Ma io non ho io ho espresso dei dubbi. Beh, e delle perplessità, non come faccio a dire, non ho nessuna prova, e le prove boh, chi lo sa, al momento non ci sono nessuna. No, ma ho capito, perché prova, tu metti in mezzo Soros? Tu hai la società che ha gestito le elezioni europee, no, peraltro perché, non è vero. Ho collegato alcune cose. Ma non è vero che esiste questa società. Questa società non è vero. Beh, una società società che controlli, diciamo una società informatica che controlli il passaggio dei voti c'è. Ora io mi sono riferito a notizie che ho trovato sulla rete. Beh, no, se nella rete ci sono delle cose false, probabilmente ho sbagliato anch'io. Non è questo il problema. Il problema, secondo me, è un altro, che insomma Soros ha fatto delle dichiarazioni in Italia prima delle elezioni contro i 5 Stelle. Esatto, questo è un dato di fatto. E ho capito, però Soros i voti è sono anche voti. Intervenuto in Ucraina, sì, certamente, ma io difatti sto evidenziando. Cioè, io non ho capito, secondo te tra i voti ma messi nell'urna chi avrebbe, senti, quando io ho scritto nel 2000, all'inizio del 2012, no? Sì. Che Berlusconi era caduto con un colpo di Stato, sì. Mi volevano rinchiudere in manicomio. Adesso veramente, invece dici... avevo sotto non la polizia, avevo sotto la macchina per portarmi direttamente in manicomio quando ho scritto quell'articolo. L'ambulanza per portarmi direttamente in manicomio ho scritto quella. E adesso tutti sostengono esattamente la stessa cosa. Friedman e tutte l'ex ministro. Tu dici avrò ragione anche sui brogli, avrò ragione. Ma non lo so, però voglio dire, in quel caso io fui trattato veramente come un pazzo furioso e poi sono venute fuori delle notizie. No, però dimmi un'altra cosa, quali sono state le colpe di Grillo? Le colpe di Grillo della sconfitta elettorale? Non voglio parlare, non c'è soltanto Grillo, c'è un problema gravissimo che la settimana prossima verrà approvato in Parlamento. Che approveremo in Parlamento la vivisezione sugli esseri umani. Come la vivisezione sugli esseri umani? Stanno discutendo senza che nessuno ne sa niente in commissioni affari sociali una legge sull'uso del corpo post mortem. Tu dici post mortem e quindi sì, ma la definizione di morte che prendono è quello di morte cerebrale, quindi quando non ho capito, spiegami una cosa, stanno discutendo del fatto che ci sarà sarà possibile una legge sulla disposizione del corpo e quindi a quel punto sarà possibile effettuare la vivisezione non su Dudu ma sugli a proposito guai a pensare una cosa del genere. Io amo gli animali, cioè, ma quella roba lì non ha danneggiato Grillo secondo te, quell'affermazione su Tutù un po'? Ma non tanto per l'affermazione in sé, che magari è come quella che ho fatto io adesso, ridicola, sto scherzando, no? Chiaramente è l'uso che la televisione, ma no, giornali... l'uso l'ha detta quella roba, scusami Paolo. Sì, vabbè, ma anch'io ho parlato adesso di vivisezione di Dudu, ma in realtà stavo parlando della vivisezione sugli esseri umani. Però cioè, che errori ha commesso Grillo in campagna elettorale? Elencamene 1, 2, 3. Ma, io penso soltanto questo, che probabilmente alcuni messaggi sono apparsi per l'elettorato troppo forti, ma il linguaggio è sempre stato quello di Grillo, è per quello che io non mi Gli italiani si sono spaventati? Probabilmente c'è stato, ma non tanto per quello che Grillo diceva, per il modo in cui questo è stato alimentato dai giornali e dalle televisioni, in questo senso. Cioè la colpa alla fine dei giornali e delle televisioni che hanno esasperato alcune affermazioni di Grillo. Le informazioni che sono arrivate ai sì, io direi in questo modo, sì, l'ho detto, ma scusami, la prima parte della trasmissione, quando tu mi hai detto i giornali, questo, come per esempio adesso, guarda, nessun giornale parlerà di questa porcata che stanno facendo. Adesso vediamo, cioè, ci informiamo. L'approvazione di una cosa incredibile, tra l'altro senza neanche lasciare passare la discussione in Parenzo, in aula, vuoi dire qualcosa, lo Becchi? Faranno, voglio dire che non è... in commissione legislativa. Sì, ma ho capito. Sì. No, Becchi, stai dicendo una stupidaggine mega galattica, in realtà quello di cui si dice. Vabbè, però non andiamo su questa cosa, amico mio, dai, su. È importante. Ma dai, il tuo corpo dopo la morte. Sicuramente nessuno vuole il cervello di Becchi dopo morto, né vogliono i suoi polmoni, né tantomeno vogliono un suo alluce. Vabbè. Ma è fondamentale, ma invece è da stato liberale. Sì, va bene, d'accordo. Del tuo corpo, cosa farne? Ma quale non è una vivisezione, è l'evoluzione del testamento biologico. Vabbè. Arrivederci, la borsa. Ciao professore, ciao Parenzo, ciao. C'è un programma, guardi, radiofonico, com'è che si chiama? La Zanzara. Da chiudere subito, guardi, da chiudere. La Zanzara. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda, ma poi invece s'appoggia proprio addosso a me. Pronto? Professor sì? Pier Giorgio Di Fredi? Sì? Sono Francesco, buonasera. Oh, ma non mi dica, veramente? Francesco, il Santo Padre. Il Santo Padre, mi alzo in piedi perché almeno questo glielo voglio dare come rispetto. Mi spero. Fa molto piacere sentirla. Oh, il matematico Pier Giorgio Di Freddi, ricordate quel meraviglioso scherzo fatto dalla Zanzara, cioè da questo programma nei suoi confronti, uno scherzo divertente, diciamo la verità, in cui lui si prostrava da anticlericale qual è di fronte al Papa e gli chiedeva addirittura l'introduzione a un suo libro, va benissimo, insomma il professor Di Freddi si era legato al dito, è avvelenato e sentite cosa scrive sulle Iene e sulla Zanzara. Programmi come le Iene sono assurdi e simbolo del trash subculturale che infesta i media dei nostri giorni, confondendo lo spettacolo per subnormali con l'informazione e pretendendo di sostituire servizi pseudo-giornalistici alle inchieste giudiziarie, cosa che peraltro ormai sembra essere lo scopo dichiarato di tutti i media, non solo quelli dichiaratamente trash. Da questo punto di vista la Zanzara costituisce l'alter ego delle Iene, con le sue continue dichiarazioni rubate, con la frode della telefonata imitata, che unisce la gag da van spettacolo alla violazione palese del diritto alla privacy. Ministri e parlamentari, uomini pubblici e poveri cristi privati sono stati via via vittime delle due Iene che dirigono il programma e che nessun magistrato si sogna di indagare, processare e condannare, neppure in seguito alle denunce sporte dai malcapitati. D'altronde la radio che ospita l'ignobile programma della Zanzara è di proprietà di Confindustria, così come la TV che ospita l'altrettanto ignobile programma delle Iene è di proprietà di Mediaset, il che prova, se ce ne fosse bisogno, che lo scopo di quei programmi non è affatto l'informazione a beneficio del pubblico, ma la pure volgare pubblicità a beneficio dei mercanti. Mi dica, sono molto contento di sentirla. Io ho letto le cose che lei ha scritto sull'Olocausto, un tema che mi sta molto. Io la fermo subito perché in realtà è un completo fraintendimento. E infatti oggi ho chiarito sul mio blog, io non ho assolutamente nessuna intenzione. Mi piacerebbe in ogni caso incontrarla privatamente, le andrebbe di parlare con me di questa cosa? Molto volentieri. Vuole che dopo la messa del 25 mi fermi un pochettino? E guardi, non so se lei naturalmente il suo libretto di appuntamenti sarà molto... Potrebbe essere una buona occasione. La chiamerà però la segreteria. Sì, volentieri. Che ha detto che non si può spruzzare lì di dire. Come confessano i loro stessi nomi, le Iene e la Zanzara non sono trasmissioni di umani per la società, bensì circhi di animali per il branco. Ma questo non consola per lo stato di degrado in cui sono caduti i media, non solo quelli che izzano direttamente le belve e pungolano gli insetti, ma anche quelli che regolarmente li esaltano, riportando le loro trovate e bravate come se fossero notizie, diventando in tal modo conniventi e complici del degrado culturale e del trash della nostra epoca. Grazie, o Di Freddi, grazie! Te l'ho dato Gesù Cristo. E questo ci voleva. Leonardo da Firenze. Leonardo! Giuseppe! Sì, però parla, dai, su, sì, pure tu, parla! Da Pisa, no? Da Firenze! È uguale, ma che ti frega! Vabbè, oddio, da Pisa, ascolta, Firenze! Giuseppe! Dimmi! Io ho 28 anni, sì. Quindi io della vita non ci ho ancora capito nulla, niente! Sì. Però, sì. Oggi, sul sì. Sole 24 Ore, sì. Nuovo Tenamen con Max Protection Technology. Non ho capito, scusa Leonardo, abbi pazienza, ma che cosa mi viene a raccontare? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne... Oggi sei libero e sicuro di te. Ma dai, Giuseppe, mi spieghi del Sole 24 Ore, ma dai, ma non ho capito, è la pubblicità, sarà la pubblicità del Tampax maschile. Ma la pubblicità, sai che cos'è? Sì. Ma la pubblicità del Tampax maschile, allora? Tampax maschile sul Sole 24 Ore. E beh, allora perché? Ma dov'è? Ma scusa un attimo, Leonardo, ma se uno vuole raccattare i quattrini dalla pubblicità, che fa? Fa lo schifitoso? Giuseppe, che fa? Che fa il difficile? In questa situazione qui fa il difficile. Ma come fa il difficile? lo slogan è un pacco umano con sopra scritto solo tu sai che lo indossi, dai, Giuseppe, sul sole 24 e allora, ore. E qual è il problema? Ma napoletano le sa queste cose? Cioè, non lo saprà, ma... Immagino, napoletano che a Trento ha intervistato Marchione. E beh, allora che vuol dire? Ma che vuol dire? Tenamen Max Protection Technology. Giuseppe, ma cosa vuoi che ti dica, Leonardo? Ma Giuseppe, se ti offrono la pubblicità, Giuseppe, ma quelli c'hanno i soldi, ieri, i Tampax tirano, avevo, queste cose Giuseppe, tirano. Io fino a ieri avevo. No, però lui dice una cosa giusta, questo ascoltatore. Cioè, se noi la pubblicità è pubblicità, però sarebbe bellissimo, ad esempio, se la nostra trasmissione cominciasse con la zanzara offerta dal programma Gutalax e poi partisse un sonoro petto. Cioè, ci sono alcune trasmissioni che magari si sposano meglio con alcuni prodotti. Questo è il senso, secondo me, dell'intervento giusto di questo ascoltatore. Certo, ma non è vero, ma sarà, ma sul sì, sito, sarà sul sito, Leonardo. Ma ad esempio, sarebbe impossibile che, ad esempio, la Treccani presenta la zanzara. Ecco, questo è un po' inverosimile, no? La Treccani. Ma ho capito, ma la pubblicità del Tampax maschile perché dovrebbe stonare con il suo... No, ma lui dice... Leonardo, non ho capito, qual è la critica? Non ho capito, allora, bene. Giuseppe, pecunia, andato, non olet, pecunia non olet. Ma no, dai, Giuseppe, ma smettila. Io sono andato sul sito di Radio 24 per ascoltarti. Clicco e mi vedo Tenamen con un pacco di un uomo con scritto... E allora? Da oggi, non nemmeno ieri. Da oggi. Ma qual è il problema? Non ho capito qual è il problema. Giuseppe, ma mi vuoi far fare polemica su questa roba qui, quando sai benissimo che quando entrano dei quattrini della pubblicità a me che cazzo me ne frega? Scusa, Leonardo, scusami. E non frega niente neppure. È chiaro che se c'è la pubblicità di uno col pisello di fuori non la mettono. Cioè, c'è più o meno un minimo di sobrietà in quello spot. È del Tampax maschile. Sinceramente, la pruderia viene solo a te. A me non viene. Io vedo una pubblicità del genere e passo avanti, punto. Cioè, la noto e passo avanti. Cioè, no, va bene, abbiamo superato da tempo queste barriere anche qui. Gabriello da Firenze. Uno come fa a chiamarsi Gabriello? Cioè, come va? Gabriello. Vabbè, ma tu devi denunciare tuo padre, tua madre, tutto. Mi chiamo Gabriello, ma non sono stato. Vabbè, ma Gabriello è una cosa inascoltabile. Dai, invece sono quasi unico. Sei quasi unico, ho capito, fare... ma purtroppo per te sei unico. Gabriello, dai, su, Gabriello. Dai, vabbè, mi chiamo così ormai. Vabbè, ma è una cosa assurda. Ho 78 anni, ormai non me lo levo più. Lo so, ma ne avrei passati tutti i colori. Dimmi, ti voglio dare due punturine, fammi parlare un secondo. Dimmi. Te li lavi le orecchie quando vai in trasmissione? Sì, me ne lavo anche, me ne ma lavo. No, perché tu fai sempre polemia con il tuo socio, sì, che non lo senti. Sì. Mentre noi ci sente benissimo. Vabbè, se tu senti, beato te, dai. Fai apposta per tagliare un po'. No, vabbè. Guarda, anche qui dal vetro mi dicono che non si sentono. Poi, un'altra cosa. Il professore dei 5 Stelle. Sì. E si è rammaricato perché fanno la vivosezione che ha detto, no? Il Parlamento. Sì, sì, loro. Allora? È una legge detta da Grillo. Vabbè, me ne fotto. Ha detto Grillo. Gabriele. Grillo ha detto: io non voglio vi selezionare il canino, voglio vi selezionare il padrone. Sì. Perché è una legge presentata da loro, dovrebbero essere. Non contenti. C'è nessuna legge presentata, grazie. Emanuele da Udine. Pronto, salve. Dimmi. Io sono Emanuele, quello da Udine, si ricorda, quello della no, canna. Non mi ricordo. Ah sì, come no, certo. Dopo vede, sono io che ho problemi di memoria a caso che mi fumo le canne, vede, dopo... Ah, perché tu sei quello che si ammazza di canne, sì, quant'è che te ne fai? No, non mi ammazzo di canne. Ma come no, dice te ne fai un paio al giorno? Ma no, un paio al giorno, vado... guarda, adesso ne sto accendendo una perché voi siete realmente la mia vera droga. Come al solito, quando stai al telefono con la zanzara ti rolli una canna, avanti, vabbè. Per okay, forza. Vabbè, allora? Allora, io volevo dire una cosa, senta, ma tutto sto discorso si ricorda che si faceva sulla legalizzazione delle droghe leggere, eccetera. Ma dove cazzo è andato a finire tutto sto discorso? Ma non è una cosa, una discussione che va a finire da qualche parte, in Italia non va a finire, in Italia ma non si conclude non mai nulla, mai guarda. Ma perché non va a finire, porca mignotta, Cruciani, lei che è una persona... intelligente, cazzo, perché mi dia lei una spiegazione, un perché secondo perché lei, ci sono un sacco di blocchi culturali eccetera eccetera, c'è un blocco di resistenza. È il suo unico problema questo, il suo unico tema non è il mio unico problema. Io sono anche favorevole alla legalizzazione della prostituzione, io sono favorevole a togliere soldi alle mafie e alla malavita, no? Penso sì. come voi due. Cazzo, penso che insomma togliere. Vabbè, Emanuele, togliere... è un discorso lungo. Che ti sei fatto oggi? Ma... mi sono fatto. Quante canne ti sei fatto? No, sto fumando la prima oggi, tranquillo. Sto una roba forte? Sto facendo una cena, tranquillo. Roba no, forte? No, non è forte, come al solito. Come al solito. Omeopatica per i dolori. Io sono cervicale. Ciao, ciao, grazie Emanuele. Giuseppe da Messina, Giuseppe. Sì, ciao Cruciani, buonasera. Dimmi, dimmi. Io volevo dire che forse sono, no, senza forse, sono d'accordo con quello che dice il matematico. Bene, bravo. Perché è assurdo che le Iene o qualsiasi altra trasmissione di questo tipo mettano in cattiva luce le persone senza praticamente avere interlocutore, non è giusto? No, non ho capito a che cosa si riferisce. Odi Freddi lo sputtanamento generale che c'è in questa trasmissione. Odi Freddi in questa trasmissione. Odi Freddi parlava della questione stamina, stamina, Iene, eccetera, eccetera, i vaccini, eccetera. Secondo lui è un'informazione deviata, non è scientifica, disinformazione, eccetera, eccetera. Poi se la prende con noi perché ha il dente avvelenato, semplicemente per questo, perché. Ma a prescindere da quello che avrà il professore, io dico che comunque sì, le trasmissioni sono troppo, troppo cattive e troppo a senso unico. Ma che vuol dire cattive a senso unico? Cioè, a me non mi stupisce nulla, figurati. Ma io lo trovo troppo comodo andare lì con la telecamera, farsi l'intervista, poi la tagliano, la mettono come gli pare, insomma, questo volevo dire. Questo però succede quasi sempre, cioè, adesso c'è un altro caso di cui ci occuperemo, quello di Yonghi Lavarini, Omar da Bergamo. Buongiorno a tutti, suo ascoltatore, a lei, a Parenzo. Volevo solo dire una cosa in merito alle Iene. Io le ho sempre seguite da anni. Poi un giorno stavo cercando dei video delle Iene su YouTube e mi imbatto in un video in cui le smaschera, che si chiama Smascherate le Iene, roba varia, no? Che praticamente fa vedere proprio come fanno a fare i loro finti servizi, censurando la verità, censurando la realtà dei fatti. Sì, io però voglio... scusi, di cosa stiamo parlando, scusa? Praticamente stiamo parlando di un'intervista che hanno fatto a uno scrittore che aveva scritto un libro sul gruppo Bilderberg. E allora? Però alla fine l'hanno solamente deriso, tagliando i pezzi che volevano, smascherando la verità di quello che noi veramente, noi italiani, paghiamo per mantenere le banche di tutta Europa. Dunque? Niente, visto che lei le stava difendendo. Ma io non è che difendo in assoluto, ho letto quello che ha scritto Di Freddi sulle Iene e la vicenda Stamina e quello che ha scritto sulla Zanzara, appunto. Io non ho difeso nessuno, a me non me ne frega niente di difendere le Iene, so benissimo come funzionano queste cose, fanno un servizio e dopodiché lo montano come vogliono loro, ma mi pare abbastanza scontato, chiunque faccia un'intervista con le Iene sa benissimo che poi il servizio verrà montato in un modo come vogliono, come è giusto che sia. Certo, se poi dicono il falso, questa è un'altra questione. Ma siete una bella coppia comica, là, Toscana, uve rosse, 40 botti artigianali di quercia francese in cantina. La mia migliore annata di Brunello di Montalcino dopo 5 anni di riposo. Solo tu conosci le tue ambizioni. Barclays ti aiuta a realizzarle, pianificando con precisione i tuoi investimenti insieme ai nostri consulenti e ti consente di gestire il tuo portafoglio in mobilità dove e quando vuoi. Visita ilmiotraguardo.it. Barclays, realizza le tue ambizioni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni, fogli e documenti informativi disponibili su ilmiotraguardo.it. La Zanzara. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Allora Parenzo, è spuntata anche Dudina, cioè è spuntata la compagna, la futura moglie, colei che farà probabilmente una nidiata di cani, Dudina, la compagna di Dudù. Ci sei? Pronto? David? Sì. Però cazzo, su, ma perché fai così? Perché proviamo? Ma perché fai così? Perché? Perché mi devi far incazzare come una bestia? Perché mi devi far vivere male? Perché? Perché mi devi... Tu alle 6:30 ti devi trovare in un posto fisso, fermo quando è possibile. L'ascoltatore di prima molto saggiamente. Senti, non rompere le scatole, non rompere le scatole. Senti, ora senti o no? Sì, vabbè. Ma ora senti o no? È con noi Maurizio Bianconi, buonasera. Buonasera a voi. Come andiamo? Ma bene. Bene, festa, sicuro, sì. Beh, è festa. No, io vado benissimo. Lei va benissimo, Forza Italia un po' meno, eh? Forza Italia ma un po' meno. Mi pare. Mi pare, mi pare. Allora, vabbè, partiamo da che cosa? Da Dudu e Dudina? Come l'ha trovata? Come l'ha trovata quella foto sulla prima pagina del giornale? Come l'ha trovata? Mi dica subito la verità. Nel mio Facebook ho scritto non siamo su scherzi a parte. Cioè, è una roba ridicola, secondo me. È una roba che fa caponare la pelle perché abbiamo già abbastanza preoccupazioni, ma come elettori di Forza Italia ora possiamo godere perché Dudu e Dudina sono finalmente insieme, insomma. Cioè lei dice... siamo al di là del bene e del male. Ecco, ma perché secondo lei è stato provato che questa roba qui non ha portato voti, diciamo, no? Questa roba... ma non è il problema di portare voti, è il problema di serietà di comportamenti. Cioè, voglio dire, siamo un partito politico che dovrebbe rappresentare il centrodestra e il giornale della famiglia del nostro leader, che è un giornale politico, non è chi, non è il giornale di quel signore che parla tutto come una signora, non so come si chiama. Tutto buffo, signorini. Sì, sì, come sì. Una signora parla. Sì, vabbè, parla come una signora. È gay, va bene, ma cioè, parla così. Poi ci sono anche tante persone normali che possono parlare anche così. Sì, vabbè, non è che è anormale lui perché è gay. Sì, no, ci sono anche persone eterosessuali. Ecco, che va bene, possono così. Parlare in quel modo. Sì. Possono parlare in quel modo lì. Sì. Però. Lei dice sembra... il giornale della famiglia Berlusconi, che non è un giornale di gossip, punta in prima pagina su Dudina. Nel mentre il Titanic. Cioè, va a fondo, questi cantano con Dudu, insomma, io quando l'ho vista mi è preso male. Beh, questo lo capisco, anche perché lì ci sono le facce sorridenti della signora Pascale di Berlusconi. No, vabbè, questa è perché è una foto familiare, non è che si perde l'elezione e tutto il giorno si piange. Però che poi la foto vada in prima pagina in un giornale politico, mi è sembrata una cosa avvilente, ecco, io devo dirlo. Avvilente, sì, no, ma lei lo dica tranquillamente. Quando lei scrive anche, mi sembra, voglio scendere, che vuol dire? Ma lei ha intenzione di lasciare... Non ne posso più di una Forza Italia così raffigurata, insomma, il cerchio magico, la Pascale, la Rossi, lo frastornano, e lui qui e lui là, e su... non è un imperatore chiuso nei suoi palazzi in mano a... Ma io non ho capito, lo è o non lo è secondo lei? Lo è? No, secondo me non lo è, perché secondo me tutti fanno quel che dice lui. Lui li piglia in giro tutti. Fanno... Allora, di che cos'è che non ne può più lei? Scusi, Bianconi, non può più della... Io non ne posso più che la politica si debba risolvere in fotografie di Dudu e Dudina, in scontri fra il re della Puglia e Toti, se si devono fare i congressi e le primarie, sai che cosa gliene frega? Ai nostri elettori nulla. Appunto, e poi è provato che quando ci sono state le scopole elettorali chi parla di organigrammi ha un solo problema, quello di assicurarsi l'egemonia sul partito. Non c'è dubbio su questo, e quindi non ne posso più di questo. Ma non esca, ne posso allora più, perché non se ne va? Non ne posso più del fatto che abbiamo un leader che è questo e che prende il 17% dei voti e le leadership si esercitano, non si delegano, quindi qualsiasi lotta che prevede qualsiasi cosa, che preveda il movimento intorno a Berlusconi, prevede la sostituzione di Berlusconi, quindi a me non mi sta bene. Cioè il leader rimane Berlusconi e parlare di primarie... Finché c'è non si discute. E dunque poi, parlare di primarie è ridicolo. Esatto, tutto il resto è ridicolo. Cioè ammantare di volontà popolare congressi e primarie è in realtà una lotta bizantina fra corti, per cui tutti quelli che sono vicini al leader ci vogliono stare senza pagare gabella. È tanto semplice. Ma chi è? E questo a me scoccia, perché Fitto è un uomo molto capace, secondo me. Sì. È una grande risorsa del partito, perché conosce la politica politicata. E Toti invece? Bisogna conoscerlo, è come se avesse comprato un brasiliano sconosciuto ai più nel calciomercato, lo vedremo in campionato. Ma che sarà, tipo, ci sono brasiliani sconosciuti che sono diventati tipo Falcao? Lì c'è qualcuno che ha fatto come Falcao, bravo, e qualcun altro ha fatto, non dico come Socrates, ma come Silvio. Silvio, quello della Pistoiese. Della Pistoiese, che poi ne avevo comprato uno invece un altro che è venuto qui in via. viaggio di notte. E secondo lei a chi si avvicina di più, a lui Silvio oppure a l'uno né l'altro? È una cosa di mezzo, si sta abituando a un mondo che evidentemente si vede non è il suo come lotta. Però mi sembra, sì. È una cosa sta, gliel'ho già detto, una cosa è stare dentro l'acquario e combattere con i piragna e una cosa invece sta fuori e fotografare l'acquario. Lui prima faceva il giornalista e stava fuori, poi dentro l'acquario. Comunque c'era anche un altro del Pisa che si chiama Caballero. Che anche Caballero, me lo ricordo, sì. Che tornò a fare poi il camionista. Poi, sì, il camionista, ma lì era il mitico Anconetani che faceva grandissimo. Sì, io lo conoscevo bene. Allora abbiamo la pubblicità, caro Parenzo, cade il telefono, ritorna il telefono. Voglio subito dire però Bianconi poi una cosa, perché non è che si può, vuoi mandare la pubblicità. Allora, ho capito che Bianconi non sta né con Fitto né con Toti, mi sembra, in questa diaspora. Io sto col partito, troppo col partito. Vabbè, ho capito, non vuol dire niente. Sto col partito nel senso che con Berlusconi. Il centrodestra ha bisogno di un contenitore e non di lotte, non sto in questo senso col partito, non col partito come mito. Comunque, le primarie e tutte queste cose qui servono solo a chi le propone, lei dice. Anche congressi. Poi mi parlerà dei soldi, perché i congressi qualcuno li propone con i soldi da dare. E Berlusconi dice: qui non abbiamo più una lira. A tra poco. La Zanzara. Dudu, ma non dovevamo vederci più, Dudu. In realtà, Parenzo, l'idea di Dudina che dovrebbe sposare, tra virgolette, fare tanti cani con Dudu, l'idea cioè di trovare una compagna per il signor Dudu. Ma questo è legittimo e anche giusto. Pare peraltro che sia della signora Brambilla, la signora Brambilla. Beh, ma lei da sempre si occupa di questa roba, cioè Bianconi. Occupa solo di quello ormai la signora Brambilla. No, diciamo, però scusami, io capisco un uomo come Bianconi che viene dalla tradizione dell'estrema destra italiana. Ma quale estrema destra? Ma che stai dicendo? Il movimento sociale italiano. Ma beh, ho capito, ma che estrema destra, dai. Ma no, io capisco che passare da almirante a Dudu, e questo capisco che può essere umiliante per un uomo come Bianconi, che ha una storia politica, lo capisco, perché almirante non è che come dire si occupava nei suoi comizi. Ma per adesso Bianconi in Forza Italia vede solo le discussioni intorno a Dudu, mi dica la verità. No, io voglio dire che se il salto è grande da almirante a Dudu, si immagini chi è che è partito a Togliatti e è arrivato alla Boschi, che salto che ha fatto. Cioè, voglio dire, cambiano i tempi, cambiano i riferimenti. A proposito, ha visto la Boschi? Si tratta di immaginare una politica al di là di ogni scherzo. Noi abbiamo gente allo sbando, abbiamo un ceto medio che nelle condizioni in cui è. Gente allo sbando di partito, dice lei? No, ceto medio gente in generale. Ma gente, lo sbando pure Forza Italia, lo sbando. No, voglio dire, è il partito che dovrebbe rappresentarlo, anziché fare una proposta politica, ricaricarsi nel territorio, cercare consensi, mette un canino in prima pagina con la canina e si arrabatta su primarie e congressi. Ma poi non si capisce che volete, insomma, perché sull'Europa è fonte di preoccupazione questo, perché vuol dire che la politica la mattina salsa va da una parte e noi tutti ci alziamo e andiamo da un'altra. Scusi, le faccio un esempio solo, che ce ne poi mi zitto. Sì. Quando ci fu l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, non ci fava il merito perché non ci voglio entrare. Sì. Il partito aveva dato l'ordine di votare per l'approvazione dell'abolizione. Sì. L'unico che si alzò in dissenso fui io. Sì. E dissi: no, io lasci fare il merito. Dico le cose. E votai contro. Dopodiché insieme a me ne votarono altri 9. Adesso poi firma il referendum. Adesso Berlusconi firmano il referendum per abolire quello che ieri avevano approvato. Cioè, voglio dire, ci vuole un segno di costanza e di idea precisa. Però diciamo politica delle cose. Allora, come stanno, Parenzo? Bianconi, per me il partito, anche su questa questione dell'immigrazione clandestina, è allo sbando, non si capisce cosa vogliamo. Lo dica chiaramente. Non c'è proposta politica, è vero, non c'è proposta politica. Non c'è proposta politica di tal che non è allo sbando Forza Italia o no? No, allo sbando no, lo sbando è una parolona, tutti i partiti oggi sono allo sbando. Beh, perché insomma, mancano quello al 40%, Renzi, quale sbando? Manca anche egli, è un partito allo sbando, perché sono tutti dietro a Peronne adesso, capito? Ora hanno il Duce e vanno tutti dietro il Duce, ma se si misurassero sarebbe allo sbando. Ho capito, però non è allo sbando, no? Come partito è allo sbando la proposta politica. Vabbè, del partito. Ho capito, ma che c'entra? No, se voi foste al 40%, altro che sbando, Berlusconi starebbe in carrozza. Però mi scusi, appunto, un attimo, quando lei dice della Boschi, l'ha vista quella immagine pazzesca con le treccine lì? No, guardi, io ho già parlato dei canini, parlate delle treccine. No, ma l'ha vista quella cosa lì che Renzi no, ha mandato? No, non l'ho vista, me l'hanno raccontata, voglio dire, però è sufficiente che Renzi sotto questo profilo è un genio, insomma. Perché? Perché? È perché ha mandato la signora Bella a pigliare i bambini neri, insomma, non è uno scemo. Lei ha parlato, non è uno scemo, realtà, è un mito dal punto di vista dell'immagine, è un mito. Lei insomma ha detto in realtà un'altra cosa su questa sì, questione qua. Sì, va bene, ma da tweet. Topa con Congolini. Sì, certo, è un mito. Ma come sì, topa sì, con Congolini? No, con contorno di Congolini, mi pare. È uguale, cioè, topa sì, con sì, contorno di Congolini. Io sì, l'ho trovata geniale come battuta, devo dire la verità. Perché è così, insomma. Cioè, com'è, scusi, dire, com'è, scusi? Cioè, è che lui è un ganso, no? Ora è in difficoltà. È in difficoltà da morire perché l'Unione Europea non si sapeva perché in difficoltà, gli diceva. Ma quando mai? Ma quale difficoltà? Lasci fa, che lo conosco io. Lui, se non va sempre avanti, si sente, gli piace subito l'agitazione, no? Allora, è un po' in difficoltà, è un po' fermo, che fa? Prima manda la Boschi, bellissimo colpo. La topa con Congolini. Dopo è un altro po' in difficoltà, dagli sulla Rai, che la ammazzano tutti la Rai. E lui allora riprende fiato. Però è un genio. Cioè, lui ha sempre bisogno dello spazio, è bravissimo, è un genio, è un mito. Un genio, un mito. Magari avercelo, no? Magari avercelo, forse Italia. Avercelo, diciamo, chi ce la gode, Però questo bisogna considerarlo, cioè Berlusconi non è più come Renzi, dai, cioè non è più uno come Renzi. Berlusconi è, diciamo così, è, insomma, un po' come Tony, gli fa i go ancora, ma non è. Comunque Fitto in realtà ha preso il 22%, il resto di Forza Italia del 13%, cioè, vuol dire bisogna pure considerare Fitto, questa. Fitto rappresenta diciamo così un'ancora di politica da non sottovalutare, e soprattutto rappresenta una parte d'Italia che voti non l'ha persi, o l'ha persi meno di altri. Per cui ha ragione lui quando invoca le primarie. No, lui avrebbe ragione quando io gliel'ho anche detto di persona. Non mi convince questa cosa metodologica, mi convince invece la rivendicazione dei contenuti, che si mettesse a far politica e non si discutesse né su leadership né su organizzazione. Oh, a proposito, sì, è vero, perché poi alla fine Parenzo, i paladini della destra oggi quali sono, quelli che beccano i voti? Salvini, Farage, questi qua, perché hanno dei programmi chiari, discutibili o meno. Salvini ha detto due cose: le potete condividere o non le potete condividere. Ha detto due cose: ha detto no all'euro e no all'immigrazione. Salvini era un partito morto, pieno di ladri, di infami, di sudici, col colpo di Stato. Ha preso il 6% nazionale su quattro regioni. Allora vuol dire che la nostra gente, se gli dici tre cose, quelle le capisce. Se gli parli di congressi, di primarie, di Dudu e di Dudina, si sente anche un po' più vero. Ma io voglio abbracciare Bianconi quando dice queste cose, io le condivido al 100%, Parenzo. Cioè, quando uno non parla di nulla e non sa che dire né sull'Europa né su nulla, Farage perché piglia voti? Perché parla chiaro, dice questa ma Europa Bianconi non Bianconi la... sa meglio di tutti noi, ma cosa poteva dire contro l'Europa il signor Berlusconi, che c'aveva un signore che era Tajani, che era in prima linea? Anche questa c'è una contraddizione. Parenzo, lei per solito non dice cose particolarmente intelligenti, questa invece lo è vero. Grazie, cioè non si può essere dentro il PPE e avere il capostipite e non far capire alla nostra gente che il centrodestra, quello vero, bisogna che critichi un pochino di più l'Europa d'azione tedesca. Questo è assolutamente vero, ci sono delle però, ma siccome mi fanno le contraddizioni sulle cose del reato di immigrazione clandestina e lì sono contraddittori, non gli fa fatica, non vedevo se fossero stati un attimo più sfrontati, non è che voleva al mondo. Questo insomma, fatto di andare dietro alla Lega sui referendum, per esempio sulla prostituzione, lei come la vede questa cosa? Sulla prostituzione io non sono d'accordo a fare referendum, bisognava trovare un sistema. Come non è sicuramente d'accordo? No, sul referendum no, questa non è, cioè non sono d'accordo che una materia così delicata. Ma lei non è a favore della legalizzazione? Io sono a favore della legalizzazione, non sono a favore della riapertura dei casini, ma sono a favore della legalizzazione. I casini non li vuole? No, i bordelli, cosa... tipo Austria, Germania, no, meraviglioso. Sì, quelli sì, ma non gestiti dallo Stato. Ma no, ma nessuno dice gestiti dallo Stato, dagli imprenditori, no. Ma figuriamoci, i casini gestiti dallo Stato. No, vorrei che pagassero le loro tasse anche loro, sì, diminuirebbe molto. Guarda, io ho fatto l'avvocato tantissimo, e cioè, la prostituzione, che sembra una cosa innocua, illegale, in realtà diventa base di molti reati. Se invece la legalizza, in qualche maniera... rompi anche uno schema di diciamo che Berlusconi ha un po' di timori ad affrontare questa cosa, diciamo la verità. Ma ecco, vede, quando il generale non può fare una guerra, i suoi colonnelli sarebbe bene che la facessero invece di litigarla prima dei congressi. Però Bianconi, Berlusconi non la può fare sta battaglia, perché poi... Sto dicendo questo, ho detto, siccome non la può fare, se no dopo alto che topa con Congolini, e i suoi colonnelli la potrebbero fare, invece di litigarsi fra primarie e congresso. Parenzo... Comunque è una cosa politica, non è, mi sembra che sia la prima cosa la politica. La soluzione, sì, dal punto di vista... Non è quello che risolve l'Italia. Insomma, però Berlusconi... piange miseria da un certo punto di vista, dice che non ci sono i soldi. È vero, mi sono informato da chi li tiene i soldi, è vero, non ci sono i soldi. Cioè non ci sono mi più. Mi sono informato perché non riguarda me, come le sai, io. Sì, lo so. Io sto a liquidare un altro partito. Cioè, siete sotto? Con i soldi, Forza dice Italia? Dice che sono molto sotto perché si sono avvalsi, mi spiegavano, di un conto corrente garantito da Berlusconi, e il conto corrente ora non garantisce più nulla. Cioè Berlusconi quindi... non vuole garantire più... No, è finito, il conto corrente è pieno, e finché non si può più adoperare. C'è da pagare gli interessi su quel conto corrente più mantenere il partito. Ma non ho capito. Ma anche da questo punto di vista, si sono svegliati la mattina e ha capito che lo Sud America non butta più soldi, capito? Però ho capito, Bianconi, da questo punto di vista c'è una contraddizione, perché Berlusconi a un certo punto aveva detto noi siamo contro il finanziamento pubblico, adesso ci ha ripensato. Mica la prima volta, io quando gli avevo detto, lei mi è testimone, come, sì, altri, come no, certo, che abolire il finanziamento pubblico è una bischerata e che si sarebbe battuto di tutti la testa, vede che anche il PD è sotto di 10 milioni, non sa come fare, lo ha letto anche, sì, lei, come no, certo, sì. Sono tutti sotto e ci saranno drammi. Per me è una tappa dell'indebolimento voluto da parte di chi vuole l'indebolimento della politica in Italia, anche la posizione di finanziamento. Cioè chi è che certo, vuole? Chi è che vuole? Perché Renzi chi gliel'ha dati i soldi? Perché il giorno che si scoprirà da chi ha preso i soldi Renzi si riderà. Da chi ha preso i soldi? Renzi non può fare il, come posso dire, la vergine stupefatta, quello che non spende, perché io, siccome mi intendo di cose di soldi e di partiti, sono andato a vedere la Leopolda e si stia sicuro che la Leopolda non l'ha fatta con i soldi che ha detto. E da chi ha preso ci i soldi? Metto la mano sul... Ah, non lo so io, problemi suoi. Ma beh, ovviamente io so una cosa, che se lei guarda tutti i consigli di amministrazione sui quali ha messo le mani, ci ha messo uno dei suoi che gli ha aiutato a trovare i soldi. Tutti. Cioè, tutti quelli che... Da Finmeccanica in giù, in ogni posto ce l'ha messo uno di quelle due associazioni che gli hanno aiutato a prendere i soldi. E questi sono problemi che l'Italia non vede, perché vede la Boschi con Congolini. Parenzo, tu ti stupisci del fatto che, a parte la Boschi con Congolini, ti stupisci del fatto che Marchionne adesso appoggi Renzi e dice che è l'unica speranza? No, assolutamente, Renzi si sa perfettamente, Marchionne comunque deve fare gli interessi della sua azienda, siccome la sua azienda ancora qualche sede qui ce l'ha, è ovvio che deve ingraziarsi il nuovo capo della carrozza, ma questo vabbè è un imprenditore, anzi è un imprenditore, è più un finanziere che un imprenditore secondo me, ma insomma è un uomo di industria, manager navigato, e quindi con chi deve, cosa deve dire? Deve prendere a cannonate Renzi? No, ma come qui deve però stare? Dice che è l'unica speranza. Crociani, mi scusi. La Fiat, che è sempre stata la più grossa azienda italiana, deve andare d'accordo con chi governa. Sì, il governo è, se li è pagati i governi ai tempi di Valletta, era Valletta che ha inaugurato il viaggio con le valigie piene di soldi a Roma per decidere autostrade invece che ferrovie, lo sappiamo tutti. Vabbè, non deve che... stare per forza dalla parte del governo. Ebbene, deve stare. Ha avuto Agnelli, la Susanna dentro il governo, Umberto dentro il Parlamento, quando si disse che forse non era a caso mandò Rossi di Montelera. Sono sempre stati dentro a tutte con tutto. È logico che dica che Renzi è bravo. Insomma, non può dire, anche se gli sputerebbe negli occhi, cosa che non penso, ma deve dire che è bravo, perché ci deve incominciare a fare una trattativa, siccome è nuovo. Sì. Senta, ma Berlusconi, pur non essendo candidabile, eccetera, poi chiudiamo, è davvero ancora il leader di Forza Italia oppure bisogna voltare pagina? Voltiamo pagina. No, pure Bianco, no. Finché c'è Berlusconi vivo, finché è politicamente vivo è il leader. Guardi, gli può stare sui coglioni, gli può essere simpatico, può ritenere che è un deficiente, può ritenere che è un genio, può avere tutte le idee del mondo, ma finché nel centrodestra c'è Berlusconi, tutto ruota intorno a Berlusconi. Grazie, a presto. Grazie, grazie a voi, ciao, grazie, ciao. Arrivederci, ciao. La Zanzara. E ancora a casa, Simo. le zanzare di casa mia si nutrono. Siamo qui, siamo qui. Dove andiamo? Antonello, Torino, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Dimmi. Io telefonavo perché intanto vabbè, complimenti per la trasmissione perché siete veramente bravi. Io vi ascolto ogni sera quando posso in macchina, quando torno da lavoro e sono proprio contento di ascoltarvi. Vai, vai. A parte questo. Dico solo che, come direbbe Razzi, Crozza, fatti un partito tutto tuo. È quello che hanno fatto Grillo, hanno fatto Berlusconi. Poi perdono le elezioni e non si dimettono e nessuno glielo chiede. Perché nessuno glielo chiede? Perché non c'è nessuno in quel partito oltre a loro. E quindi rimangono come se avessero vinto e ancora che parlano entrambi come se avessero vinto. Però è un peccato perché io sono un elettore del PD, ho votato Renzi, sono contento che ha vinto, però dico il cambiamento che aveva prospettato Beppe Grillo, insomma era una cosa che poteva cambiare l'Italia eccetera, e poi alla fine niente, non c'è niente dietro, è un peccato. E poi la risposta che si dà ma scusi, abbia pazienza Antonio, perché si dovrebbe dimettere Grillo? Lei dice perché lo ha detto una volta, ha affermato che se avesse perso si sarebbe dimesso, comunque avrebbe lasciato, in realtà parlava delle elezioni politiche, certamente ci sono alcune frasi che si possono interpretare in questo senso, ma perché uno si dovrebbe dimettere a un anno dalle elezioni politiche? Ma perché credo che la politica sia un po' una questione di responsabilità. Se uno, voglio dire, ci mette tutta la faccia, ci mette l'impegno, evidentemente se il pubblico li prende è perché questo messaggio non è andato bene. Non è una risposta nemmeno quella di dire sono gli elettori che non hanno capito, gli italiani che non capiscono. Su questo non c'è dubbio. Grazie. Luca da Bergamo. Luca. Oh, buongiorno Giuseppe. Dimmi. Io sono veramente cazzato come una biscia. Io vedo qui adesso un palinsesto Rai dove mi hanno rubato 40 partite, le hanno vendute alla Sky, adesso minacciano uno sciopero. Cioè io ho un locale, pago 400 euro all'anno di canone, non mi fanno neanche vedere i mondiali, mi fanno vedere quel cazzutissimo di Fazio perché saremo a un... Vabbè, ma qual è il problema? Qual è il suo problema? Perché è incazzato? È che mi sento preso per le chiappe. Cioè, voglio dire, io pago un canone, oltretutto super maggiorato, non mi fai neanche vedere i mondiali. Capisci che non mi sento preso per il culo, di più. Sì, ho capito, però non è che siano un diritto. A parte che non è vero, perché ci sono alcune partite che sono sulla Rai, altre che sono... Ma tutte le 10 di sera, tutte... Ma no, maestro, lasciamo perdere questa divisione. Ci sono molte partite che vanno su Sky, in esclusiva. Una ma perché parte... hanno comprato i diritti? Ma parte scusa, che hanno comprato i diritti hanno pagato. E comunque l'Italia lei la vede tranquillamente sulla Rai, perché poi c'è questa cosa assurda per cui l'Italia deve andare per forza sulla Rai. No, perché è assurda. Per ora loro dicono, loro hanno messo in vendita dei diritti, come ovvio, no? Cioè i diritti sono in vendita e se li ha accaparrati. No, ho capito, c'è questa legge assurda per cui che tu non conosci, per sì, cui no, che, ma esiste anche in altri paesi. Che le partite della nazionale devono essere per forza mandate più o meno dal servizio. Esclusiva. Certo, no, non è in esclusiva perché in realtà le manda pure Sky, comunque traffico. La zanzara. In Grecia si è consolidata. I bravissimi camerati di Alba Dorata hanno ottenuto un buon risultato nonostante siano perseguitati ingiustamente dal sistema. Beh, in realtà sono accusati di terrorismo. Bah, sì, sono accusati dai servi del Fondo Monetario Internazionale, della plutocrazia mondialista europea. Moderato Yonghi Lavarini, scoperto dalle Iene, in realtà è stato scoperto qui alla Zanzara e prima ancora dal signor Parenzo anni e anni fa a Tele Lombardia. Adesso tutti, come dire, dirottano le loro attenzioni su Yonghi Lavarini, che peraltro ha querelato le Iene per aver assemblato un servizio a suo dire lesivo, perché hanno montato a Yonghi Lavarini. E su, se ti fai intervista dalle Iene, che pensi? Che riportano 50 minuti di intervista? Tagliano dove cazzo vogliono, no? E quale sarebbe il pensiero alterato? Ma che ne so, ma chi se ne frega? Commenti questa frase che non è mia. La violenza non è immorale, la violenza è qualche volta morale. generale. Quando Benito noi... Mussolini, assolutamente condivido. Se la forza serve per difendere il mio popolo, io sono pronto ad usarla. Tranne qualche sana manganellata e qualche bicchierino d'olio di origine, non è mai successo nulla. Ma il fascismo ha perseguitato e ammazzato un sacco di gente. Pochi numeri e all'interno di una rivoluzione, di una guerra civile. 10.000 oppositori condannati al confino, Gramsci e Turati. Andavano in delle bellissime isole a respirare aria buona. Anzi, se vogliamo dirla tutta, per me l'unico errore vero di Mussolini è che è stato troppo buono con i suoi oppositori politici. Però scusami, abbi pazienza, non mi sembra molto manipolato quello che abbiamo sentito. Ionghi Lavarini, signor Ionghi Lavarini. Mi hanno dato appena adesso una notizia sul cellulare, me l'ha dato un mio amico, per la verità, che è Adam Smulevic. Tu dici chi è Adam Smulevic? L'ha detto stampa dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il mio amico Adam Smulevic, che mi dice che Ionghi, te lo sto dicendo, gli abbiamo dato un messaggio, Ionghi Lavarini è stato denunciato dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane assieme alle Iene, mi ha appena detto. Sì, assieme alle Iene. Iene che c'entrano, scusa. Allora, perché non hanno denunciato noi quando abbiamo intervistato 40 volte Ionghi Lavarini? Ecco, io dico semplicemente, io ti ripeto, l'ha detto stampa dell'Unione delle Comunità che l'ha detto. Dopodiché ti dico questo, che chi lo ha visto in faccia, questo qui, perché anch'io non me lo ricordavo anni fa, già aveva quella faccia lì, ma vedendolo in faccia, lì ti viene una sonora risata, cioè è un uomo che fa paura a se stesso, solo. Senti questa cosa qua sull'olio di ricino, senti, che aiuta secondo Ionghi. È stato proprio buono come lo era l'olio di ricino. Ma un goccino d'olio digestivo aiuta anche a dimagrimento e tutta salute. E fa ragionare? Il fascismo era come un buon papà. Al bambino che sbaglia gli dai una sberlina sulla mano. Al comunista che sbaglia gli dai una leggera bastonatina che così riflette e ragiona sui suoi errori. L'olio di ricino, Roberto Ionghi Lavarini. Signor Ionghi Lavarini. Beh, comunque sarebbe l'ora che per quel che ha detto... qualcuno aprire. Ma io sono per la libertà di... Io no, nessun fascicolo. Ionghi Lavarini è fascista dichiarato. Non gli rompete i coglioni. È un fascista dichiarato. Non gli rompete i coglioni, capito? Basta. No, un momento. C'è una legge però. Ma quale legge? Ma bisogna abolirla. Ma fino a quando c'è, però non si passa con Rosso. Basta fare di Ionghi Lavarini. È con noi un esponente del Movimento 5 Stelle che ringrazio e saluto perché la cosa si fa seria. Stiamo parlando con Walter Rizzetto. Buonasera. Buonasera, signor conduttore, immagino. Sì, come va? Come va? Sì. Abbastanza bene. Potrebbe andare meglio. Ma sì, per il Movimento 5 Stelle potrebbe andare meglio sicuramente, anche se poi pigliare il 21% non è che sia una cosa così... Appunto. Cioè, è sempre il 21%, Cioè, ma lei immagini soltanto per un attimo, se avessimo detto in tutta la campagna elettorale prenderemo sopra il 20%. Beh, infatti, che cosa avete sbagliato? A evocare la vittoria? A evocare... Questo è stato sbagliato? Ma sì, forse un po' di troppa sicurezza nel dire arriviamo a qualcosa. Senta, mi faccia un elenco, lei che, come dire, non mi sembra uno allineato alla, no, a quello che viene da Grillo e Casaleggio, ma pensa con la sua testa. Cerco di farlo. Vabbè, mi sembra, quanto possibile. L'elenco degli errori di Grillo, qual è stato? Partiamo dal primo. No, allora l'elenco degli errori non è da attribuire soltanto a Grillo, si parla di un movimento politico, quindi se di errori ce ne sono stati, si tratta di errori del Movimento 5 Stelle. Vabbè, però diciamo chi ha fatto la campagna elettorale è Grillo, dai. Sì, certo, l'ha fatta Grillo, l'hanno fatta i parlamentari, insomma. Ci sono stati probabilmente, guardi, dei toni un po' troppo accesi, forse l'elettore italiano ha temuto qualcosa che in realtà poi insomma non si sarebbe verificato, perché voglio dire, il canovaccio di Grillo non è che lo scopriamo in seno alle ultime elezioni europee, insomma lui ha sempre un po' gridato dal palco. Cioè, secondo lei Auschwitz ed altre cose sono cose che non andavano dette, che ne so, la vivisezione di Dudu? Io non le avrei dette. Senta una cosa, ma Foy Imposimato negli ultimi giorni, Imposimato anche qui alla Zanzara, ha detto: beh, insomma, l'alleanza con Farage è una cosa pazzesca. Sono degli ignoranti, sono fuori linea, oppure non capiscono Farage, sono ancorati ancora a vecchi schemi, destra, sinistra, come li considera? Ma fuori linea, vede, io ripeto, io non ho mai incontrato forse una volta il giudice Imposimato e ho visto forse da un palco il premio Nobel Foy. In realtà, ripeto, sono delle persone che si sono avvicinate in termini ideali al Movimento 5 Stelle, insomma, ma non lo hanno creduto nel Movimento 5 Stelle, però in questo caso cioè, non so quanto possano rappresentare il volere del Movimento 5 non Stelle. Non lo rappresentano, lo dica chiaramente, Fosimato non rappresentano i 5 ma Stelle. Poi, ma poi, ripeto, ci lamentiamo tanto di avere un Presidente della Repubblica che ha più di 85 anni e poi, ripeto, noi dovremmo andare a parlare ai giovani, dovremmo andare a parlare alle persone che non lavorano. Ah, interessante questo, non possiamo essere rappresentati come simboli da due che hanno più di 80 anni, dice lei. No, questo lo sta dicendo lei. Beh, come ho capito, lo sto dicendo io, lo dice o non lo dice? Attenzione, non sono stato d'accordo quando c'è stata fatta questa analisi che i cosiddetti pensionati hanno fatto perdere le elezioni del Movimento 5 Stelle. Il voto va sempre. No, però scusi, è lei che ha parlato di anziani adesso. Io le ho fatto riferimento a Fo e a Imposimato. Lei ha detto: beh, Le dico che in questo frangente preferisco ascoltare anche altre persone, mi pare più che giovani, più giovani. Sia Fo sia Imposimato, insomma, abbiano una lunga carriera e una lunga storia alle loro spalle. Insomma, lasciano spazio di favella, come vuol dire Fo, anche ai più giovani o ai meno giovani. Cioè lei non si sente rappresentato da Fo e da Imposimato? Ma io mi sento rappresentato dal Movimento 5 Stelle, sono un deputato del Movimento 5 Stelle. Però Rizzetto, quindi, mi scusi, il punto è fondamentale. Spesso nella discussione pubblica, altrimenti noi non li chiameremo, i giornalisti non li chiamerebbero, no, Parenzo? Cioè è evidente che c'è stato negli ultimi tempi Fo e Imposimato in particolare. Ma il primo. La contraddizione è un'altra, se mi permette. Sì, un attimo solo. Fo e Imposimato rappresentano. Cioè, se uno chiama Fo è come se parlasse il Movimento 5 Stelle. Questa è una contraddizione. Rappresentano una voce all'interno di Movimento 5 Stelle, di coloro che hanno votato Movimento 5 Stelle. D'altra parte, prima di me, ahimè, avete sentito anche Becchi, avete sentito anche, vabbè, anche Bianconi mi sembra ci fosse prima. Sì, sicuramente. Proprio l'ultima ruota del carro sono io, ma non importa, sto scherzando. Avete sentito Becchi che non più tardi. No, sto scherzando. Non c'entra niente l'ordine, eh. Ascolti, avete sentito Becchi che fino a due mesi fa diceva tolgo il disturbo dal Movimento 5 Stelle. Invece... evidentemente non è così, ma insomma, è una voce come altre, ci mancherebbe altro. Io ascolto tutti, ascolto tutti. Con Farage bisogna fare l'alleanza, sì o no? Perché per esempio Becchi, lei potrà dire che è contraddittorio, eccetera, però ha detto chiaramente che questa alleanza sta da fare. Lei che cosa pensa come deputato grillino? Ma guardi, io penso che questo tipo di alleanze le deciderà Grillo come capo politico del Movimento 5 Stelle. Ho capito, ma lei, Rizzetto, cosa pensa? Io penso che Farage sia un interlocutore come altri. È chiaro che dei punti, rispetto ai punti di programma che ha Nigel Farage, ci sono, se mi passa. Ma si può stringere un accordo in Europa con lui o no? Anche delle cazzate. Io penso che con lui si possa stringere un accordo, come si possa stringere un accordo con l'Alternativa per la Germania, che è uno schieramento che Grillo la prossima settimana incontrerà, come si potrà stringere un accordo con i Verdi. No, con i Verdi no, o con Farage o con i Verdi, non è che si possa scegliere. Certo, noi abbiamo questa cosa che pochi o tanti, i nostri votanti, i nostri simpatizzanti... No, non mi dica che decide la rete. Ma perché non deve essere fatto? No, non mi dica che decida la rete su questo, perché non è possibile, dai. Su un'alleanza del genere decide la rete, dai, su. No, ma guardi, io penso invece che sia cosa buona e giusta. Nel senso che quando, ad esempio, sul reato di immigrazione clandestina ha deciso la rete, sul fatto che Grillo fosse andato a parlare con Renzi o non Renzi, o non fosse andato a quell'incontro, ha deciso la rete. Noi dobbiamo essere coerenti, la coerenza ci serve. Sì, ma ho capito, ma la rete non può decidere su un'alleanza. È normale che sia così. Perché? Non rappresentando loro praticamente nessuno, se non il popolo del vaffanculo, perché non è che hanno un blocco sociale di riferimento. Dice, una volta c'era il PC che rappresentava gli operai, la classe media, cioè. No, loro sono il popolo del vaffa, della protesta, dai, sul vaffa. No, ma usiamo le parole del comico, ma perché devi edulcolare? Il popolo del vaffa è evidente che non avendo una linea politica propria, cioè, i Verdi si sa che cazzo vogliono, l'ecologismo, cioè, loro non ce l'hanno, quindi ogni volta devono per forza consultare su qualunque cosa la rete. Parenzo, mi permetta Parenzo, voglio dire, io non so se lei ha letto il programma dello UKIP. Il programma dello UKIP, vado velocissimo, tratta di immigrazione, tratta di difesa, tratta di ambiente, tratta di Europa e tratta, come tutti chiaramente i gruppi al mondo, tratta di tasse, questo è del tutto evidente. Sull'immigrazione sono abbastanza decisi, addirittura voglio dire, loro dicono che ci saranno loro nel loro programma 5 anni di stop all'ingresso degli immigrati. Beati loro, okay. Almeno dicono una cosa precisa. Sulla difesa propongono un aumento delle spese militari del 40%. Come no? Sull'ambiente propongono no all'eolico, più carbone. E lei su questo nucleare. Non è d'accordo? No, su questo no. Su questo allora, no. Se mi permette, io su questo no. Però Grillo è stato chiaro. ha detto, guardate, vabbè, che se qualora noi entrassimo a far parte dell'AFD, di cui fa parte anche lo UKIP, quindi se questo si tratta di un'alleanza tattica, eccetera, si tratta di un'alleanza, mi permetta però di passare questo concetto, si tratta di un'alleanza tattica in questo caso, che ti dà cioè ti permette di votare anche in dissenso rispetto allo stesso gruppo. Ha detto anche che non è razzista, che è simpatico, Farage, ma devo chiudere, Borsa, grazie. Le ho già detto, Cruzani, che Farage dice anche qualche cazzata, ma ci mancherebbe altro, questo si grazie sta. Grazie. La Zanzara. Le zanzare, yeah, fanno male. Non neghiamo la realtà. Come esiste una finanza cattolica, esiste evidentemente anche una finanza ebraica. Ma è lo stesso ragionamento di quel criminale di Hitler che ha sterminato un intero popolo. Beh, adesso gli ebrei sono perseguitati da 3.000 anni da tutti i popoli del mondo. Ma non le sembra che in Germania con 6 milioni di morti ci siano andati pesanti? Sono tedeschi, sono precisi, ben organizzati. Ci vuoi dire che non condanni l'olocausto? La storia la scrivono i vincitori. E dirci quello che ti pare. Signor Yonghi Lavarini. Parenzo, non dici nulla su Yonghi? Mi sembra troppo. Mi sembra che anche lui abbia superato il limite. Sì, no? qui secondo me i tagli sono stati qui, I tagli che lui rimprovera alle Iene sono stati qui quando ma parlo. Non mi interessa i tagli, quella persona lì ha detto quelle cose perché le pensa. Sì, tagliati, edulcorati, tutto quel che vuoi. Vabbè, pagherà. Ha parlato, sì, ma pagherà se qualche tribunale gli dicono lo riconoscerà. Ma io mi auguro che venga applicato. Scusami, se col rosso non si passa fino a quando c'è una legge. Che sì, ma quale qual è la legge? Scusa, qual è la mamma legge? Mamma mia, si chiama legge Mancini. La legge Mancino va abolita. Va abolita. Va abolito anche il fatto che si passa col rosso al semaforo. Yonghi Lavarini. Fino a quando? Ascolta, quando se uno dice io sono rosso, fascista, sono nazista, eccetera, è un coglione, un cretino, ma secondo me ha la libertà di dirlo. Questo è quello che dico io. Punto, senza andare in tribunale, eccetera. Poi una cosa ma è l'odio, sentito, una cosa è fatto l'incitazione all'odio, che è una cosa diversa. Da questo punto di vista, una parte della legge Mancino la manterrei pure. Ma come dire, a dire che gli ebrei sono sempre stati perseguitati, quindi un motivo quello, ci sarà. Ma quello, mi sembra, no, Giovanotto. Ma quello no, bisogna vedere l'integrale, perché questi sono dei tagli. Bisogna vedere l'integrale. Beh, sì, perché noi mandiamo sempre l'integrale, per esempio, non si può tagliare da noi, è in diretta. Ancora, omosessuali. Ha figli? Due figlie femmine e uno in arrivo ai primi di agosto. Se una di loro le confidasse di essere omosessuale? Ma la convincerei del contrario, insomma, si vede che non ha trovato il maschio giusto per lei. Gli presenterei io un bravo camerata. Se sposasse un nero? Nero di fede? Come me? Come il suo papà? Sono ben contento. No, di colore. Ah, di colore? Beh, secondo me ognuno è meglio che si accoppi col proprio simile. Ma si dice nero o negro? Ma io penso che il termine corretto sia negro. Signor Yonghi Lavarini, Yonghi Lavarini, le troverei, se mia figlia si dichiarasse omosessuale, le troverei un buon camerata, signor Yonghi, beh, pensaggio incredibile. Senti su un'altra cosa. È un personaggio che qualora dovesse prendersi una sberla, secondo me in tanti applaudirebbero, guarda, in tanti. Signor Yonghi. Ho detto qualora, eh. Qualora, sì, certo. Dopo questa provocatoria intervista a delle Iene non posso che salutare romanamente tutti i telespettatori. Il saluto romano è un saluto chiaro, pulito, igienico, solare. Guardi che quello che ha fatto è apologia di fascismo. Ma no, si lega bene ai libri di storia. Questo è un saluto bellissimo che fa anche il Papa fa un saluto romano. Saluti da Roma e quindi saluti romani. No, ma c'era anche quello sulla sposa comunista. La sposa comunista. Questo era Borghezio, però. Sì, questo era Borghezio. Sì. E se invece sua figlia sposasse un comunista? Ma il comunista lo converte la figlia con l'amore e il suocero con i buoni consigli. Quali sono i buoni consigli? Beh, se ci vuole un goccio d'olio, anche al cenere non fa male. Al limite, un goccio d'olio non si lega a nessuno. E se sposasse un ebreo? Beh, io continuo a dire moglie buona ai paesi tuoi. Insomma. Lei con chi fa sposare sua figlia? Con uno analfabeta, morto di fame, con l'AIDS, drogato, ebreo e comunista? No, allora. qui siamo lì, qui effettivamente siamo andati pesanti, Parenzo. Mi fa vomitare. Ah, lo ammetti anche tu? No, qui sì, perché a paragonare, ha messo insieme in una stessa categoria i morti di fame. Ma voglio capire questo, secondo te, se lui gira per strada e improvvisamente uno qualunque, dico, no, lo trova per strada e gli tira senza fargli troppo male, ma gli tira un calcio nel sedere. No, sbagliato. Ecco, sbagliato. Ma voglio dire, sì, no, è chiaro che è sbagliato, infatti deve intervenire la magistratura, bussare, dice, scusi, è la casa del signor Yonghi Lavarini? Ecco, sì, no, fascisti, camerati, lo prende e lo porta per una, ma non per tanto tempo, ma non per tanto, io per 20 giorni. Dove? In gattabuia, dove in questa gattabuia ci devono essere un tossicodipendente, che non dovrebbe stare in carcere, ma purtroppo c'è un tossicodipendente, un paio di magrebini anche, No, sì, ma no, quelli se lo inculano, scusa. No, io non l'ho detto questo. Non l'hai detto, lo dico io, ma quelli là se lo inculano in carcere e tu saresti contento, tu saresti contento, vergogna. Esce da lì con il sorriso della Gioconda, guarda, te lo dico io. Cala. Iene, tra l'altro, Mauro da Mantova, eccolo qua, Mauro, è intervenuto pure stasera, Mauro da Mantova. Ma non l'hai ancora schiacciato o soppresso quel coglione di Parenzo? Eccolo qua. Mauro da Mantova, immagino che Mauro, tu sei d'accordo col signor Yonghi Lavarini. Ho pensato di fargli un omaggio, Parenzo, una gita. Dove? Quella estiva, no? Sì. Sai dove? Dove? In Qatar o in Bahrain? O negli Emirati Arabi. Perché? E riesce ad entrare. Prova a dare nel visto. Non bisogna essere israelita o di religione ebraica. Secondo te perché? Perché? Perché se tutti i popoli ce l'hanno con gli ebrei, sai perché? Perché se le sono tirate loro. Perché è da 2000 anni che vanno degli altri nazioni, si impadroniscono dell'economia e poi gli danno la spallata. E tu pensi che quelli che li ospitano siano contenti? Sì, prego. Aspetta che mi tolgo le mutandine e mi faccio incappettare secco dall'ebreo. Col cazzo! Io li prendo a calcio duro. Riprendo, se loro fossero invece più educati. Ma io non ho capito, ogni giorno le analisi politiche di Ma no, ma io voglio dire questo, ogni giorno è storia, questa è storia. Ma quale storia, Mauro? Ma che cazzo di libro hai letto tu, Topolino? Dai, su, dai. Ma io voglio dire, ogni giorno zitto un attimo, Mauro. La storia raccontata perché mi ha fatto comodo a loro, perché dai, sono quelli che rimangono l'economia mondiale. Soros, Madoff, sono tutti ebrei. Bush è un ebreo. Soros è un ebreo. Vabbè, ma tu sei malato, ma sei ossessionato. Allora, Bush non è. Ma a parte che Bush non è ebreo. Ma Bush non è ebreo. Ma che confusione che c'è, te? Guarda. Ma chi te l'ha detto te? Che confusione. Lui sarà. Lui. Allora, ti spiego una cosa, caro Cruciani, che non sai un cazzo. Dimmi. Mio padre, sai che lavoro faceva? Che lavoro faceva? Lavorava nell'ufficio anagrafe. E faceva ma tuo padre corsi, ti ha lasciato alla ruota. Faceva i corsi d'aggiornamento, se vuoi sapere, era dentro nel corso di Gladio. Vabbè, ma che c'entra tuo padre ma con Gladio? Famiglia. Allora, lui ha fatto i corsi d'aggiornamento. Come si fa per sapere se è una famiglia ebrea? Semplicissimo. Ecco. Allora, primo, quelli che hanno un centro sociale basso hanno i nomi delle città. Savona, Rimini. Mamma mia, poveretto. I signori sì, hanno i nomi delle città. Quelli invece che sono nobili, quelli che hanno il grano, hanno il doppio cognome: De Benedetti Tronchetti Provera. Non è ebreo. Caro non è, mio, siete pazzo. Poco informati voi. Siete poco informati voi. Questo è matto. Non sono matto. È che voi non sapete un cazzo. Il problema è quello. Vabbè, ma qual è perché hai chiamato, Mauro? Perché hai chiamato? Ma scusami, però ma c'è tanta gente. Aspetta. Ma secondo te, chi pensi che l'abbia pilotata sta crisi di merda? Ma quale? Che l'abbia pilotata? E che ne so? L'economia ebraica americana in collaborazione con l'economia ebraica europea. Ascolta, ma chi è che mano le banche? Chi è che mano le assicurazioni? Chi è che mano l'oro? Chi è che mano le armi? Chi è che mano il petrolio? Ma tu sei malato, di mente, tu sei pazzo. Voi volete sovvertire la verità. È come Odi Freddi e Federico Rampini. Per forza contrastano il centro-destra. Sono il leccaculo di quell'ebreo di Benedetti, che è il primo evasore fiscale che abbiamo in Italia. Ma tu, Mauro, sei... Sai che adesso lo querelerà. Ma tu sei un pazzo, E se voi le cose non le sapete, il problema è quello. Mauro da Mantova, fermo lì. io avevo un è in questo grande caravanserraglio quotidiano, caravanserraglio quotidiano. Poveretto lì, ma a quello lì io no, dico, ma guarda, mi viene, ogni volta che lo sento mi viene da vomitare. C'è tanta gente che ogni giorno infarti, ma gente proprio per bene. Ma perché auguri un infarto a Mauro D'Amato? Ma non ho capito. Stai augurando un infarto a Mauro D'Amato? Dico che ha vissuto tanto proprio, tanto a lungo proprio. Ma è tanto. Con noi un mito, una leggenda anche della radio. Gianni Boncompagni, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Bene, bene. Sono su un aereo delle frecce tricolori. Come delle frecce? Che cazzo stai a fare? Sono dentro lì, mi hanno fatto un giro così promozionale. T'hanno deportato sulle frecce tricolori, scusa? Sono sul rosso, sono sull'aereo rosso. Ma una cosa pazzesca. Ma scusa, ma le frecce tricolori, ma tu proprio... A te delle frecce tricolori non ti importa nulla, tra l'altro. Poco. E di che ti importa in questo momento? Lo sciopero della RAI ti importa, per esempio, contro Renzi? Ma lo sciopero della RAI, guarda, io non posso dir male della RAI perché sono nato alla RAI, devo tutto alla RAI. Sacco dei soldi. Insomma, tutto quanto, insomma, quindi però certamente hanno ragione, perché sono di uno spreco spaventoso, tipo quelle, tutte le sedi regionali è uno spreco. Poi conosco consulenti, mi ricordo a miei tempi lì già si parlava di consulenze scandalose, di gente che scriveva un librettino o un fogliettino e prendeva milioni. Scusa, ma allora ha ragione Renzi che anche la RAI deve tirare la cinghia, oppure hanno ragione quelli che... Ha ragione, sì. Stai con Renzi. Sali pure tu sul carro di Renzi. No, non l'hai detto. Io non sono salito. Ma che hai votato tu adesso all'Europa? Ho votato Grillo, vuoi saperlo? Ho votato Grillo. Hai votato Grillo. Ti sei pentito, no? No. Mi è dispiaciuto che ha perso, perché così, insomma, ha errori... Ne ha fatti tanti, ma comunque non mi sono dispiaciuto. Ecco, ma lui dice che è colpa pure degli italiani, i pensionati che non vogliono andare avanti. Ma sai, dicono tante di quelle cose che meglio Dario Fo che dice che gli italiani vogliono continuare a ingoiare merda, così l'ha detto in una telefonata rubacchiata da qui, dai due cialtroni qui della Zanzara. In un programma della RAI, ieri sera credo, quello lì c'era Dario Fo ospite, nell'arena di Verona, ha parlato per roba come 12-13 minuti dicendo... io sono ateo, non credo a niente, non sono marxista, leninista, comunista, tutto, però io sono con Bergoglio, ha detto. Addirittura, sono con Bergoglio. Ma che vuol dire? Qua io devo parlare bene di Bergoglio. Ma perché uno, questo mito di Bergoglio che c'è? Pure tu c'hai il mito di Bergoglio? No, io non ce l'ho. Ma fai bene, basta con sto mito di Bergoglio, lo stanno riducendo a una specie di clown amato da sinistra, da destra. Lui sai, è simpatico, un simpaticone argentino, sai, parla italiano, insomma, per rispetto a quegli altri, certo, insomma, non lo so, però a me non me ne frega niente del Papa. Ma manca a me, guarda, a me non me ne importa nulla di quello che fa il Papa, che dice il Papa, guarda, tanto la Chiesa non cambierà mai, diciamo la verità. No, ma tu aspetti dopo 2000 anni, per carità. Finché la Chiesa non sarà d'accordo sui condom, io non ho speranza. Devo dire una cosa a Gianni. Che devi dire a Gianni? Dimmi. No, che oggi, Parenzo. Oggi ero a prendere un caffè con Giovanni, no, è una cosa privata in realtà, siamo ancora in diretta? Scusa, ma sì, siamo in diretta, perché devi Scusami, vabbè, ormai la dico, perché pensavo fossimo già fuori la diretta, scusami. Vabbè, comunque ormai la dico. Posso dirla o no? Sì, dilla. Avanti. Ero a prendere un caffè da Giovanni Benincasa. Mio amico, carissimo amico. Mi ha detto salutami, io ho detto guarda, stasera con quel coglione di Cruciani avremo sicuramente, se siamo in diretta sempre? Siamo sempre in diretta. Dicevo stasera con quel coglione di Cruciani avremo sicuramente Boncompagni, ma fantastico, ma perché vieni in quel postribolo? Ecco, quindi la domanda, visto che siamo in diretta, che ti perché voglio viene fare nel postribolo della Zanzara? In questo postribolo perché? Perché gli piace la Zanzara, perché è abituato, cazzo, ma è stato l'autore di programmi pazzeschi che sono stati, come dire, da un certo punto di vista, no? I nostri modelli, i nostri esempi. Certo. Perché perché vieni alla Zanzara? Ecco. Perché? Perché vieni ospite alla Zanzara? Boh, mi simpatica la Zanzara. Capito? È una risposta molto semplice è una risposta molto semplice che puoi dare all'amico tuo. Ma siamo in onda sempre? Siamo sempre in onda, sì. Ma perché non Senti, Berlusconi, come si è ridotto, secondo te? chi? Berlusconi. Male. Male, eh? Fortunatamente. Fortunatamente male. Cioè, perché male, sì, dici tu? Perché si è ridotto? Ma perché? Cosa vuoi che faccio ormai? Fa ridere, dice delle cose, sono tutte barzellette. Dudu, adesso c'è pure Dudina. Ho letto, sì, l'ho letto. Una cosa patetica, è pazzesco, tu. Insomma, Berlusconi, se non ci fosse sarebbe meglio. Cioè, dovrebbe morire, dici tu? No, poveraccio, no, morire no. Morire no, però scomparire dalla scena sì. Sì, va a fare altre cose. Vabbè, ti abbraccio, a presto. Dentiere, ciao. Ora si occupa di dentiere. Dei dentiere. Abbracci, a presto, ciao. Mauro, che vuoi? Mauro, che vuoi? Dimmi. Scusami. Dimmi. Come mai che quando io parlo di queste cose tu cerchi sempre di sovvertire? Ma anche queste sono realtà. Realtà? Quale realtà? Gli ebrei? Che cosa? Ascolta, allora, guarda, Mauro, ci sono un sacco di ascoltatori per i tuoi deliri, insieme ad Andrea dalla provincia di Milano, Andrea da Torino, Dennis da Cesena, Andrea da Bologna, li rimando tutti, vi abbraccio fortissimo, ci sentiamo domani, ciao. Fra poco va in onda Ascolta si fa sera, programma di approfondimento religioso e... Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Lei è una porcheria, Cruciani, perché è senza una morale. Radio 24. La passione si sente.